Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un portachiavi spia con all'interno una microcamera in grado di registrare fino a 1280x1024 e di scattare fotografie fino a 720x480 di risoluzione. Come si installa l'applicazione Spyphone sul cellulare? Una delle principali funzioni di un cosiddetto Spyphone, ovvero un telefono spia, è la possibilità di intercettare le chiamate. Un localizzatore GPS è un dispositivo che invia, su richiesta ed in tempo reale, la propria posizione geografica espressa in latitudine e longitudine via SMS o GPRS ad un telefono cellulare o ad un server GPRS. Per conoscere l'esatta posizione basta inserire le due coordinate ricevute via SMS sulle mappe pubbliche di internet. La prendo da lontano. Quanti di voi hanno o hanno desiderato comunque, almeno una volta nella vita, acquistare per corrispondenza i fantastici occhiali a raggi X che vendevano sull'Intrepido qualche decina di anni fa? Io non ci ho mai provato, però l'ho desiderati tanto. Si vedeva un'illustrazione con un signore con questi occhiali ridicoli di cartone con una spirale al posto delle lenti, e passava la signorina procace e la vedeva come fosse nuda. Qualche amico mio li acquistò pure, ma era naturalmente una bufala, non si vedeva niente. Però questo giornalino per bambini di buona famiglia e di sana parrocchia degli anni 50, 60, 70, non so fino a che anno hanno continuato a vendere gli occhiali a raggi X, aveva individuato in realtà un filone molto proficuo, che è quello delle macchine da spionaggio. Quanto voi resistereste comunque alla tentazione se venisse improvvisamente il buon Mefistofele, entrasse a casa vostra e vi dicesse: tieni, questo straordinario oggetto piccolissimo ti permette di investigare nei segreti più riposti di tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tua nonna, tua zia, il tuo capo ufficio, il tuo collega, le persone che vedi per strada, i grandi della terra. Ecco, quanti di voi resisterebbero? 800240024. Voi resistereste alla tentazione di avere il grande oggetto, il grande fratello in mano, la macchina del grande spionaggio? Perché molti in realtà non stanno resistendo. Vuoi effettuare riprese senza farti notare? Cogliere la spontaneità senza che un'ingombrante telecamera dia nell'occhio? In questo video vi spiegherò come costruire un telefono spia da collegare successivamente a una cabina che si trovano fuori dalle abitazioni. Vuoi filmare le lezioni universitarie, i convegni, per poi rivederli comodamente sul tuo computer? Microspia GSM Quadriband. Dico questo perché la giornata di ieri doveva essere la fantastica giornata in cui in tutto il mondo scendevano in piazza gli Anonymous, gli organizzati anti-imperialismo, gli occupai sto mondo e quell'altro e via dicendo, con la maschera del grande terrorista inglese di 400 anni fa, V come Vendetta, a far saltare il Parlamento inglese, cioè, per dimostrare che in realtà non vogliamo essere spiati, i grandi della terra ci spiano, ci osservano, hanno un grande occhio aperto su noi. È vero, verissimo, lo sottoscrivo, lo so. Non ne ho le prove, ma sono pronto a scommetterci, a giurarci che ogni momento della nostra vita che passa attraverso delle interconnessioni telematiche, tecnologiche, elettroniche, comunque da qualche parte viene registrato. Perché? Perché non si sa mai. Se voi foste un grande della terra, resistereste ad acquistare gli occhiali a raggi X sull'umanità? No, loro non resistono, li hanno acquistati. Ci piace giocare con i nostri attrezzini? Ebbene, siamo osservati. Non dico che questo sia bello, sia etico o mi riempa il cuore di allegrezza, ma è un dato innegabile. Io ho il giocarello elettronico addosso, questo giocarello elettronico corrisponde agli occhiali a raggi X dei grandi della terra, così abbiamo fatto contenti anche tutti i manifestanti. Però io mi sono fatto un'altra domanda, mi sono andato a cercare un po' in rete sotto la voce microspia, macchina per intercettare, voglio farmi i pifferi degli altri, via dicendo, e ho trovato una rassegna di oggetti fantastici, ma vi giuro, ma in nessun catalogo post al market della mia fanciullezza erano elencate cose del genere. Addirittura c'è l'orsacchiotto di peluche con la telecamera dentro per registrare. Vuoi registrare la babysitter se fa il suo lavoro? Vuoi vedere se la notte i tuoi bambini dormono? Non si capisce perché. C'è l'appendiabiti con la telecamera dentro, cioè tu metti l'appendiabiti in camera da letto, poi te ne vai, ciao cara, me ne vado tranquillo. Poi tu speri che qualcuno venga al posto tuo, appenda la camicia, i pantaloni, le mutande con l'appendiabiti e tu vai a vederti tutta la scena per avere le prove. c'è i portachiavi, vabbè, portachiavi, uno dice lo metto nelle chiavi della persona che voglio intercettare, così vedrò dove va, che uso fa di quelle chiavi, quanto l'uso della chiave e il chiavamento sia lecito o illecito intorno a quella telecamera. Addirittura pensate, oltre agli orologi, ai portacenere, a tutti gli oggetti più comuni, ci trova una croce d'arcivescovo. C'è una croce con la telecamera dentro, ma cosa serve? Immagina un cardinale, un arcivescovo che via internet si compra la croce con la telecamera spia per registrare cosa? Il conclave, gli incontri riservati, le confessioni, non si capisce bene, eppure il mercato c'è, se no non ce ne sarebbero tantissimi. Guardate, ce ne sono veramente migliaia in rete. 800 24 00 24, li vorreste i fantocchiali a raggi X per sapere esattamente tutto quello che fanno le persone attorno a voi? Ciao a tutti, ancora una volta con voi per parlarvi di un nuovo meraviglioso prodotto, l'orologio microcamera. Questo meraviglioso prodotto è il primo registratore con telecamera digitale miniaturizzato, così piccolo da poter essere inserito in un normale orologio da polso. Ma vediamo come funziona. Per attivare la registrazione o fare foto digitali, bisogna prima di tutto premere il pulsante laterale per accendere la telecamera. Premendo il tasto centrale, la guardate, vengono venduti nelle televendite esattamente come si vende il miracoloso apparecchio vaporizzatore per togliere la polvere anche dagli angoli impossibili, la micragnosa vaschetta per il pediluvio elettronico fai da te, la finta sauna da mettere dentro casa e via dicendo. Quindi sono accessori per casalinghe, non è più materiale specializzato per investigatori e agenti segreti. Ecco, adesso sto vedendo addirittura c'è il profumatore da bagno con la telecamera dentro. L'affare lì, quel coso lì con la gelatina che si mette per non far sentire la puzza del gabinetto. Mi dite cosa deve spiare quella cosa lì? Forse può aiutarmi Nello Di Savio. Buongiorno Nello Di Savio. Buongiorno a tutti. Nello Di Savio si occupa di tecnologie investigative, sistemi di sicurezza. Il suo sito è spyproject.com. È un sito che dà anche idea di alcuni di questi accessori. Ecco, mi conferma che è un mercato abbastanza fiorente e soprattutto molto creativo, quello degli oggetti da spionaggio domestici, del bricolage, del fai da te e del piccolo spione in casa? Sì, in effetti, insomma, negli ultimi anni la richiesta di questi dispositivi è aumentata a dismisura. Le richieste pervengono per la maggior parte da genitori che vogliono controllare i figli, da persone che subiscono minacce, atti intimidatori e le vogliono registrare, ma allo stesso tempo, come si evince insomma dalla tipologia stessa dei dispositivi, possono essere anche utilizzati in modo tra virgolette illegale per spiare terze persone. Anche perché diciamolo chiaramente, sono tutti dispositivi che la legge dice che non posso spiare un'altra persona. No, questo assolutamente non è vietato dalla legge, infatti se lei è anche scritto in tutti i siti, rendiamo conto che questi oggetti non possono essere usati per spiare. Assolutamente per spiare nessuno, però le faccio un esempio, non lo so, stesso le trasmissioni televisive, i reportaggi che vediamo magari in giro. Sì, le Iene usano telecamere nascoste, certo, per esatto. Fare, fanno dei bei servizi, onestamente. Esatto. Il gioco vale la candela in quel senso, capito? Se ne prendono anche l'onere comunque se qualcuno poi li denuncia. Il valore del servizio è talmente alto che si prendono anche l'onere di un'eventuale rimostranza da parte di chi viene registrato, e questo lo si capisce. Ma nel campo privato individuale, mi può fare una tipologia delle cose che vanno di più, perché i prezzi non sono eccessivi, sono alla portata di tutti. Io potrei comprare un deodorante per bagno microspia con poche decine di euro e metterlo nel mio gabinetto e vedere, non so, che succede quando non ci sono, ad esempio. Sì, in effetti anche questo è vero. Il discorso è questo, che la tipologia di vendita che viene effettuata oggigiorno viene effettuata direttamente sul sito web, quindi l'utente accede al sito, fa l'acquisto e la cosa finisce là. Ci sono persone che magari chiamano per un consiglio, per una consulenza, o persone insomma che, siccome si è spostato tutto dal classico giornalino che parlava, diciamo, di cui parlava prima lei, degli occhiali a raggi X, adesso molto si sta spostando su YouTube, no? Vedere il video, vedere proprio il prodotto. Sì, spiega come funziona. Lì c'era un ragazzo che spiegava come si fa uno spyphone, cioè come si trasforma un normale telefono cellulare in un telefono cellulare che avverte un altro telefono in tutte le telefonate, tutti gli SMS, che è abbastanza in teoria semplice, sì, almeno ottenerlo, ecco. Sì, no, il discorso è questo, insomma, tutti i dispositivi che si vedono in commercio hanno una doppia valenza, possono avere una valenza illegale e una valenza legale. Le faccio un esempio banale, il programma che serve a spiare il computer, se io sono un genitore che voglio controllare mio figlio, voglio controllare la navigazione di mio figlio... Minorenne, in teoria posso farlo, certo. Ovviamente, se sono un marito geloso, o peggio ancora, lo installo sul computer, non lo so, del mio concorrente... in ambito commerciale, ma anche di un dipendente, di un socio, in teoria non è di un dipendente, insomma lì poi incorro in reati penali, insomma poi la legge italiana da questo punto di vista molto severa. Poi diciamo, la tecnologia si mette sul mercato, poi se uno ne fa un uso, anche un martello che compro da ferramenta, posso metterci i chiodi nel muro e posso rompere la testa a qualcuno, più o meno è la stessa cosa. L'esempio, insomma, sì, mi sembra abbastanza coerente, insomma, con quello che avviene oggigiorno. Quindi, le ripeto, i prodotti vengono venduti, sono richiesti, ci sono tanti curiosi, anche tanti appassionati, eccetera, eccetera. Però poi l'utilizzo. No, c'è anche chi professionalmente li usa, chi ha una licenza di agenzia investigativa può usarli nell'ambito della legge che ben conoscerà, penso, no? Sì, anche se le devo dire la verità, insomma, è molto ristretto l'utilizzo. In alcuni casi è possibile usare un localizzatore GPS per visualizzare gli spostamenti del mezzo. Quindi mi conferma, diciamo, lo zoccolo duro della clientela di questa gadgettistica sono privati cittadini che sono molto interessati a capire, oltre le apparenze, cosa accade intorno a loro. Sì, ma la maggior parte sono privati. E questo, la di mercato è il privato. Ecco, quali sono gli oggetti che vanno di più? Allora, negli ultimi tempi, diciamo, le cose più richieste sono i software per il controllo del computer, diciamo, per controllare un computer, e i software per i cellulari, quindi per localizzare il telefono, per avere una copia di backup di tutte le chiamate, di tutte le telefonate, la registrazione di tutte le chiamate. E ovviamente con l'evolversi della tecnologia questi, diciamo, questi dispositivi ormai viaggiano tutti sulla rete internet, quindi tutte queste informazioni le visualizzo direttamente sul mio tablet o sul mio computer, senza limite di distanza. Insomma, è un po' come leggere le mail, solo che invece di leggere la posta elettronica vengono inviate tutte, cioè, l'importante è piazzare la polpetta avvelenata nel telefono, nel computer della persona, poi uno tranquillamente da casa ha tutto il report minuto per minuto di quello che accade. Ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico, è importante però che anche il pubblico mi faccia capire, siccome c'è una clientela molto vasta e come ci dice il nostro amico non sono persone che professionalmente usano questi sistemi, siete voi che non resistete alla tentazione di comprare gli occhiali a raggi X, ma qual è il motivo per cui li comprate? Cos'è che vi interessa sapere soprattutto? È stato detto, molti genitori vogliono controllare i figli, ma siamo proprio sicuri che la parte principale degli acquirenti degli orzacchiotti di peluche con la telecamera, dell'appendiabiti e della croce pettorale con la telecamera siano proprio genitori in ansia per i figli? Melog, cronache meridiane. Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di un nuovo interessante prodotto Investigatù, la SIM Card Spy, un lettore di SIM card USB. Grazie al software in dotazione potrete immediatamente vedere e salvare gli ultimi 20 SMS cancellati o qualsiasi altra informazione che credevate perduta. Viene confermato il trend di superficialità rispetto a questo problema, perlomeno di desiderio di nascondimento. Nessuno ammette, degli ascoltatori di solito telefonano copiosi, di acquistare dispositivi di intercettazione. Mi scrivo un SMS: a me non offrirebbe niente di ascoltare o spiare, solamente per vedere cosa succede ai miei bambini. Sì, tutti bambini, sono piezze core, improvvisamente c'è un mercato fiorentissimo di oggetti per scaricarsi gli SMS dai telefonini, per osservare le email, e uno dice: per i miei bambini. Mi chiede un ascoltatore che quali, se ci sono dei sistemi di antidoto elettronico per individuare questi oggetti. Poi ci risponderà il nostro ospite. Intanto sento Francesca. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Lei è stata tentata dall'acquisto di occhiali raggi X, diciamo, delle declinazioni contemporanee tecnologiche. Sì, sì, diciamo tentata, no, non l'ho fatto, non l'ho ancora effettuato, non so se lo farò, però lo vorrei. La curiosità è che purtroppo davanti alla mia porta vengono effettuati degli atti vandalici alla mia porta di appartamento, una volta, due, tre. Che tipo di atto? Che tipo di atto vandalico? E viene praticamente, la porta viene rovinata con non so che cosa. Dei graffiti sulla porta. Bravissimo, bravissimo, infatti. Allora, a questo punto io sinceramente una volta, due, tre, può capitare che qualcuno faccia uno scherzo, ma se è una cosa continua, sinceramente a questo punto non mi sembra che il danno possa essere gratuito. Lei vorrebbe incastrare il vicino invidioso con una telecamera che viene lì e gli graffia la porta, non sa per quale motivo, semplicemente perché ce l'ha con lei. È quello, non riesco a capire il motivo, voglio sapere perché, poi magari quando poi capisco chi è lascio perdere. Ecco. Solo che lei, cioè, non ci dorme la notte per sapere chi è che ce l'abbia con lei. Giovanni, Giovanni, Giovanni. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, no, io non li acquisterei assolutamente per tre motivi semplici. Primo, non vorrei essere spiato io. Secondo, vabbè, che vuol dire? Se lei spia un altro, mica necessariamente c'è una legge del contrappasso, sì, e poi altri spiano. Lo so, però non mi piace fare agli altri quello che non mi piace. Vabbè, lei ha una visione etica, diciamo, dell'esistenza, non tutti siamo mossi da questo sentimento. No, ok, però personalmente, primo per quel motivo. Secondo, in passato l'ho fatto e ho scoperto delle cose che sarebbe stato meglio non scoprire. Ho letto delle mail di una fidanzata molto molto vecchia, ho scoperto delle cose scabrose che forse sarebbe stato meglio, Non sapere, certo, se no poi va a investigare. Lasciatemi nell'ignoranza. Ma su questo sono d'accordo io, guardi, se uno va nelle aree limacciose, le persone che su cui confida, ha attese, fa progetti, soprattutto da giovane, in realtà scopre quello che in realtà anche noi siamo, anche noi facciamo, anche noi pensiamo, ma noi siamo ancora... Per quello era il primo motivo, proprio perché anche noi le facciamo. Il terzo motivo è che mi toglie tutto quel gusto di circuire amici, persone, chiacchiere da bar e cercare di avere le stesse informazioni con un po' di, diciamo, atto prestigiatorio. Ma lei preferisce usare quelli che chiamano gli spioni le fonti aperte? Lei dice, sono già tante evidenze rispetto alle vite altrui che mi piace capirle, tirarle fuori io senza andare a investigare. Mi sembra giusto. Nello Di Savio, ricordo che è responsabile di spyproject.com, che è un sito che vende appunto queste tecnologie. La domanda faccio all'ascoltatore: esistono dei sistemi di neutralizzazione di questi apparecchi? Certo che sì, di pari passo, diciamo, ai sistemi di spionaggio sono nati, quando vengono aggiornati, di continuo i sistemi, diciamo, per il controspionaggio. Quindi esistono programmi sia per PC che per cellulare che, se rilevano una minaccia, la bloccano o quantomeno avvertono diciamo, l'utente dell'installazione, insomma, di un software malevolo all'interno del computer. Allora, vediamo di fare un esempio di radio di disservizio. Se qualcuno avesse la coscienza sporca, non volesse che i suoi altarini fossero scoperti e sospetta che comincia a entrare in quell'area di pericolo per cui qualcuno potrebbe intercettarlo, che contromisure dovrebbe prendere? Ecco, il discorso, diciamo, è un po' ampio, cerco di farla breve. Diciamo, se la fonte che spia è un privato. Sì, marito, moglie, coniuge, è chiaro, questo è questo, tanto inutile ci giriamo intorno, il succo è questo. Sì. Allora, finora si tratta del marito e della moglie, è sufficiente non lasciare mai il telefono incustodito, prima cosa. Portarselo sempre dietro. Deve avere accesso al telefono, non lasciarlo mai incustodito e verificare il tabulato telefonico. Questo lo possono fare online tutti i telespettatori in base all'operatore, e vedere se ci sono dei messaggi, degli sms di testo uscita a un numero di telefono che loro non conoscono. Ah, perché okay. Nel tabulato verrebbe fuori l'SMS spia. L'SMS sì, l'SMS che viene fuori sempre, perché poi ci sono varie tipologie di programma. Comunque, quello che viene fuori sempre è dell'avviso cambio SIM. Quindi io, se prendo il mio telefono, inserisco una nuova SIM, un'altra SIM, non la mia, la sostituisco, ovviamente la persona che mi deve spiare deve essere a conoscenza del numero di telefono che ho inserito, giusto perché ho cambiato il numero di telefono per potermi continuare a spiare, e viene avvertito con un SMS. Quindi è una prova che si può fare tranquillamente. Questo già abbiamo dato un ampio margine di difesa. Riguardo, diciamo, alla debolezza che uno può avere di scrivere sul computer messaggi d'amore, chat bollenti, poi cambiando la pagina mettendo il New York Times oppure, che ne so, le ricette di cucina, secondo del genere. Ecco, lì come si può ovviare? Lì è un po' più difficile. Meglio astenersi dall'utilizzo del computer, perché oltre a programmi esistono anche degli hardware, no? Esistono dei connettori che vanno interposti tra la tastiera e il computer. Lì è molto complicato, a volte è anche semplicemente una ciabatta. Sentiamo Elio, buongiorno. Buongiorno. Lei ci è caduto? No, io non ho assolutamente non mi sognerei mai di intercettare qualcuno. Semplicemente ho scaricato un software per registrare delle telefonate. È funzionato sì o no? Che chiudiamo? Assolutamente ha funzionato sì, ho le telefonate registrate. Va bene, se ne faccio una ragione, capita a tutti. Alla prossima.